Radio 24. Libera la voglia di fare. Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a coorte, l'imposta è più forte e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Di Carlo Alberto Carnevale Maffè, Oscar Giannino, Mario Seminerio e Renato Cifarelli. Ed eccoci qua, cari ascoltatori di Radio 24, in questo sabato 3 giugno alle 10, 8 primi e 24 secondi, l'allegra compagnia dei gufi e dei però anche difensori del rigore qui di Conti della Belva, vi porge un grande ringraziamento per l'ascolto in diretta in podcast in questa assolata sabato di giugno, e siamo in studio oltre a Oscar Giannino, Mario Seminerio e Carlo Alberto Carnevale Maffè. Capiremo più tardi se l'aereo da un altro continente porta, come speriamo, anche Renato Cifarelli stare con noi nell'inoltre della trasmissione. Di cosa parliamo ve lo dico subito: chiamateci all'800240024 per intervenire in diretta. Innanzitutto partiamo con il punto della settimana con il nostro insostituibile Mario Seminerio, perché ci sia molta carne al fuoco, c'è la revisione, anzi il raddoppio della stima del primo trimestre dell'Istat della crescita del PIL, capiamo perché. C'è stato l'intervento del governatore della Banca d'Italia, c'è stato l'accordo, una specie di memorandum, non è ancora un accordo sui particolari, che riguarda Siena, c'è un problema aperto che riguarda le due banche venete, c'è un'intervista sul Sole di oggi del segretario del PD Matteo Renzi, piena di, insomma, bellicismo, per così dire, proprio sui temi bancari di cui parleremo. C'è la rottura sul grande accordo COP21 che potrebbe, vediamo, cambiare le coordinate geopolitiche, se l'Europa la sfrutta come occasione, ma intanto ieri non ha firmato il memorandum dopo l'incontro sulla Cina per la clausola di riconoscimento del mercato aperto, secondo me bene ha fatto. E insomma, ci sono tantissime cose. Oltre a questo parleremo con Veronica De Romanis del suo libro, è un pretesto, ma il libro è bellissimo perché è schierato, è un libro il cui titolo dice tutto, L'austerità fa crescere, e parleremo di finanza pubblica italiana ed europea. E nella seconda parte trarremo spunto da un articolo che la voce.info ha pubblicato questa settimana per una patrimoniale. Il titolo era Un patto fiscale per ridurre il debito pubblico e rilanciare l'Italia, con il suo autore Carlo Milani, ma è sempre anche questo un pretesto per capire che cosa ci attende dopo, che cosa, dopo la lettera che il ministro dell'economia Piercarlo Padoan, il vero pilastro della credibilità di questi anni dell'Italia del centrosinistra, ha inoltrato alla Commissione europea per ridurre a un terzo le richieste di correzione del deficit con la prossima legge di stabilità, con il tentativo quindi la prossima legge di bilancio, scusatemi, di sminarla, di non far partire il ballo dello spread, di coprire le spalle a eventuali elezioni anticipate, fondata o non fondata, ne parleremo traendo spunto appunto da quell'articolo sulla patrimoniale. Allora, cari compari, da cosa cominciamo? Da MPS? Sì, direi di cominciare da MPS, bella notizia, dopo sei mesi quasi, circa, sì, sei mesi di travaglio, e finalmente la montagna ha partorito non un topolino, ma direi un risultato positivo. Per esempio, quello di dare finalmente una strada chiara per tutte le future attività di intervento di ricapitalizzazione precauzionale. In sintesi, Oscar, cosa succede? Che la banca accolla ai suoi clienti, cioè ai suoi azionisti, ai suoi obbligazionisti, tutte le perdite attuali e quelle prevedibili. E questo è il vero problema. Non sappiamo ancora quali saranno gli interventi sui costi e sul personale e sulle filiali, che sono ancora poco chiari. In compenso, lo Stato torna a dove doveva essere fin da prima, cioè a fare il finanziatore temporaneo e precauzionale, e certamente non il risanatore, non il copritore di debiti e non certo il nazionalizzatore. Questo è un momento importante perché finalmente la Commissione europea ha ribadito i passaggi fondamentali della direttiva sul risanamento bancario. A me sembra una bella notizia che fa pulizia di tante illusioni e di tante illazioni fatte in questi mesi. Allora, è atteso per fine giugno un decreto nel quale bisognerà capire a questo punto i particolari del burden sharing. Vi sottolineo che noi da mesi e mesi e mesi abbiamo detto che non c'era alternativa a questo, mentre invece si è favoleggiato di tutt'altro, e i meccanismi per il tra virgolette, ristoro dei titolari di obbligazioni subordinate, perché l'accordo con l'Europa è abbastanza chiaro. Poi bisogna vedere come viene interpretato in Italia, cioè, caro Alberto, l'accordo dice il ristoro è solo per coloro che dimostreranno di essere vittime di mis-selling. Esatto, quindi non è per un'intera categoria definita ex lege, bensì è caso per caso per coloro che sono stati vittima di una vendita non trasparente o non adeguata. E bisogna vedere però in quel caso, perché tra i titolari ci sono, ce n'è anche una bella quuota fondi esteri, quindi bisognerà vedere com'è la loro reazione. Però è la, natura della vendita a costituire elemento che dà titolo al ristoro e non è la natura del compratore. Questo è importante, perché mentre il governo aveva fatto un decreto sostanzialmente categorico, fattimi dire, andava per tipo di titolo. E questa è una cosa assolutamente inadeguata rispetto al sistema di garanzia che è previsto dall'Unione Europea, ed è un segnale molto importante che quindi ciò che conta è l'attività di vendita. Ah, tra l'altro fammi precisare che è la banca a dover rimborsare, anzi scusate, ristorare gli importi agli acquirenti, non lo Stato. E lo deve su fare. Su questo tutto da vedere, perché l'impostazione iniziale italiana era completamente diversa. No, l'impostazione iniziale era che lo Stato facesse l'attività di ristoro, come è successo in realtà per le quattro banche andate, come dire, in risoluzione pre-bail-in. Qui invece l'Unione Europea ribadisce i criteri, cioè è la banca che ha fatto male, cioè ha venduto titoli che non doveva, che deve rimborsare, cospargendosi il capo di cenere, gli acquirenti, chiedendo scusa e restituendo non cassa, bensì titoli più senior. Vedremo, terremo un faro aperto. Che dici, Mario? Sulle banche? No, sulle banche poi vedremo. Poi mi lascia molto sulle perplesso. Due venete torniamo. Sulle due venete torniamo. No, io volevo segnalare quella che è la reiterazione di un canovaccio da parte di Luigi Di Maio, il prestigioso esponente del Movimento 5 Stelle, che intervenendo a Di Martedì... Reiterare il canovaccio vuol dire pulire, sì, vuol dire, per no, terra. Vuol dire proprio fare la lavandaia, diciamo. Esatto, ecco. Fino a quando non si strappa il tessuto. No, ha detto, lei fosse al governo, come recupererebbe questi 20 miliardi delle clausole? E Di Maio ha detto, ci sono 10 miliardi di lotta alla corruzione con 4-5-Z, quello lo possiamo quantificare. E poi... bisognerebbe, secondo Di Maio, tagliare con un decreto i consigli di amministrazione delle partecipate. Come che no? Costano 9 miliardi. Ora, il punto è che nei famosi o famigerati o leggendari PDF di Carlo Cottarelli, le 37.000 cariche nei consigli di amministrazione costano, in termini di emolumenti, 450 milioni. C'è un piccolo ordine di grandezza. 20 cioè, volte di meno. No, qual è ma il problema è che i grillini... cifrano le loro manovre ipotetiche di risanamento su scala logaritmica, per cui cioè loro vivono nel loro mondo a parte. E poi naturalmente, ma sono arrivati a studiare i logaritmi secondo te? No, per capire, ma dipende poi... a che anno era. Dai, dipende a che anno ragazzi, era ragazzi, poi però no, appunto, poi soprattutto diciamo è importante dire che secondo Di Maio, ma immagino che questa sia la posizione del movimento, bisogna nazionalizzare le banche in crisi per poter fare credito a famiglie e imprese, per cui cioè questa forma di sovranismo assoluto, perché se Trump ha la mother of all bombs, i grillini hanno un'altra MOAB che è la mother of all bullshit, per cui devo diciamo, tradurre bullshit diciamo, o si capisce? No, ma sì, no, per carità, però come per chi non lo sapesse, stronzate in italiano, esatto, ecco, esatto. Adesso arriverà tutta l'ondata dei messaggianti che dicono che io ce l'ho col Movimento 5 Stelle, no. Mentre fino a ieri c'era un'ondata social che diceva che io ce l'ho sistematicamente con Renzi. Esatto. E quindi ci siamo fratelli. Della serie, no, della serie fate pace comunque col tu vostro... un po' Mario ce l'hai, in generale. Io ce l'ho, diciamo, ecco, ce l'ho. Non ce vi l'ho. Dimenticate, cari ascoltatori, che anche questa settimana Mario Seminerio stupirà tutti più avanti con la sua pillola di ottimismo . E vedrete. Torniamo tra un minuto. Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò, sì! I conti della Belva. Ricordati che devi morire! Sì, no, mo me la segni proprio, non vi preoccupate. Allora, questa settimana, caro Mario, la nostra, lo dico, sconfitta, ci è andato su un duplice fronte. Primo, l'Italia, scrive Marco Fortis, cresce più della Gran Bretagna e degli Stati Uniti. Quello è vero. Appunto, quindi piantiamola lì, lamentarci, crescita asfittica, non è vero niente, perché lì sta raddoppia la stima di crescita del primo trimestre. Subito dopo, il ministro Padoan scrive all'Unione Europea e dice che basta una correzione dello 0,3, non dello 0,8 come ci chiede l'Unione Europea, e quindi anche l'eventuale rischio di pensioni anticipate, i paesi in cui il debito cresce, sono tutte frottole. L'Italia è solidissima nella sua finanza pubblica e ha una crescita robustissima. Allora, cominciamo dall'Istat. Ma sì, allora, c'è stata questa revisione, è abbastanza clamoroso, infatti nella tabella delle revisioni dell'Istat si vede proprio questo outlier impressionante, no? La prima stima era più 0,2 e raddoppia nella seconda stima a più 0,4, portando il tendenziale a più 1,2. Allora, qui c'è da dire che siccome in questo paese ci sono 60 milioni di esperti su tutto, da ieri abbiamo anche 60 milioni di esperti di contabilità nazionale di deflatori, per cui... è notevole sta cosa, però per non portarvi al suicidio parlando in eccesso di tecnicalità, il PIL è frutto della variazione reale, la quale è frutto della variazione nominale, più la variazione del cosiddetto deflatore, che non è l'inflazione, ma è il costo di tutti i beni prodotti all'interno di un determinato paese, con peso variabile. Quindi del valore aggiunto, diciamo, esatto, e non il dei valore prezzi aggiunto al consumo, esatto, no? Quindi del esatto. processo produttivo che porta al famoso PIL. Per capire, quindi non è l'inflazione per noi consumatori, esatto. ma è la struttura dei costi per tutta la ciclo produttivo. Quindi cosa è successo? Che il PIL nominale del primo trimestre è sceso dello 0,1%, però poiché il deflattore del PIL è stato pesantemente negativo per lo 0,6%, siccome la sottrazione di una voce negativa aggiunge, noi siamo arrivati prossimi ad avere un più 0,5%, arrotondato per difetto a più 0,4. Vuol dire che la struttura dei prezzi nella catena del valore aggiunto è diminuita, cioè sì. sono diminuiti i prezzi. Almeno, quindi, così, almeno così sembra. Ecco. In contabilità nazionale c'è una voce residuale, una variabile plug, diciamo una sorta di zeppa che si mette per far stare in piedi il tavolo, che si chiama scorte. Scorte. Che non è però da intendere in senso stretto come le scorte di magazzino Piazzali delle imprese. Pieni. Esatto. È un po' come si fanno i bilanci, quello che avanza esatto, proprio, diventa scorte. È proprio quella la differenza che c'è tra la variazione dell'intero e quella delle sue parti. È un parti. Meccanismo di riconciliabilità statistica dei, sì, sì. delle esatto, colonne. È una esatto. riconciliazione statistica. Però diciamo... Far quadrare i conti, vediamo così. Sì, sì, sì, esatto. È come la voce errori ed omissioni nella bilancia dei pagamenti per coprire i trasferimenti di capitale illeciti. Cosa è successo? Che le scorte contribuiscono per ben lo 0,4 allo 0,4 di progresso del PIL. Badate che anche in Francia, nel primo trimestre, c'è stato un boom della voce di contabilità nazionale scorte, che contribuisce per ben lo 0,7. Abbiamo una statistica e marche. Ma non solo, non solo, anche in Grecia, prima stima meno 0,1, seconda stima più 0,4. Cosa sto cercando di dirvi? Che probabilmente sul primo trimestre ci sono stati dei giochi statistici che sono comuni come fattore all'eurozona, che hanno determinato una spinta in avanti del PIL. Cosa rileva ai nostri fini? La crescita nominale, perché la crescita nominale è quella che si confronta con il costo medio del debito e determina se noi riusciamo a fare scendere il debito PIL. Ora, primo trimestre, Italia, crescita nominale meno 0,1, ultimi 12 mesi, Italia, crescita nominale più 0,7. Per darvi un confronto, la Spagna sta intorno al 3,6-3,8 annuo di crescita nominale. Per quello il debito PIL spagnolo flette pur avendo loro un robusto deficit. Allora, io voglio dirvi solo un paio di cose. La prima è che nessuno ribadisco, nessuno sta dicendo che Istat tarocca i dati. Questo scalpellatevelo bene nel cervello, voi chiamate le cospirazioni. Istat non sta taroccando i dati, sta semplicemente considerando il PIL dal lato dell'offerta, quindi considerando il valore aggiunto. Se questo è un dato anomalo, verrà riconciliato dal prossimo trimestre e dai successivi e torneremo in media. Se volete la mia opinione, l'Italia non sta crescendo a 0,8, ma non sta crescendo nemmeno a 1,2. Okay. Se guardiamo la domanda nazionale al netto delle scorte, siamo sempre in un intorno di 0,3, che è quello che facciamo da 4 trimestri. E però, qual è il nostro problema? Che la crescita nominale resta esangue. Poi, e questo, scusa, è una cattiva notizia per i conti pubblici, è meno una cattiva notizia per la competizione dell'impresa privata però, fermi su questo, perché io ho l'obbligo di dire a chi ci ascolta, per manifestare l'intero della nostra correttezza, che sulla questione della buona notizia per i conti pubblici invece vedremo quando ci verrà spiegato meglio, però il professor Marco Fortis e Renzi, che l'ha già detto, dicono che da trimestri in realtà flette il debito pubblico sul PIL. Aspetteremo di capire perché. Sì, esatto, perché a me non risulta, però segnaliamolo. Però allora, qual è la disaggregazione? I consumi delle famiglie buono a più 0,3, buono in media un po' più alto, pubblica amministrazione più 0,1, investimenti meno 0,1, ma avevano fatto un grande risultato il trimestre precedente, quindi è una sorta di payback questo, di restituzione. E la domanda estera netta sottrae lo 0,2 perché la variazione dell'import supera la variazione dell'export. Notate anche che il deflatore è negativo perché quello degli investimenti è praticamente crollato nel corso del primo trimestre. Ora, investire costa di meno? Esatto. I prezzi degli investimenti e delle attrezzature sono crollati? Lo scopriremo. È questo che voglio dirti, che se è vero che la crescita nominale è bassa o nulla in questi casi, non è una buona notizia per il debito pubblico. Invece è una notizia importante per l'industria privata, che deve recuperare un differenziale di inflazione che si è accumulato per una decina di punti, 15 punti rispetto per esempio ai nostri partner europei, e quindi una deflazione della struttura del valore aggiunto per noi è una buona notizia, vuol dire che siamo sulla strada del recupero di una certa competitività privata, almeno per la parte dei tradables. Quindi insomma posso dire botte mezza piena mezza vuota. Prego. Detto questo, segnaliamo che non uno dei mezzi di informazione italiana, non uno, ha seguito questa strada per spiegare il dato del, ma è un po' criptica, un po' specialistica, un po' specialistica, no? Però è stato detto, ma no, va tutto benissimo, i servizi decollano eccetera eccetera, l'industria non mi pare, però detto tutto questo, noi pensiamo che sia giusto aggiungervi questa chiave, perché in realtà è così che si arriva al raddoppio, perché se è un dato positivo, ma non è un dato rassicurante, non ci consente di stappare bottiglie di champagne. No, ma è impressionante, ripeto, questo deflatore fortemente negativo. Per me è un blip, per me è un problema statistico che tra l'altro non è relativo solo all'Italia. Certo. E il prossimo trimestre lo vedremo. Che ci sia un'accelerazione della crescita è un dato che vi stiamo ripetendo da settimane. Quindi è probabile che l'Italia si stabilizzi intorno ad una crescita di PIL dell'1%. Però vedremo, ma non è nulla di cui scrivere a casa. Per me, se noi riuscissimo ad avere un PIL nominale che cresce più del costo del debito, questa sarebbe la mia buona notizia del decennio. Finché non arriviamo ad avere una cosa di questo tipo, non possiamo dire nulla. Anche perché, poi Oscar, se noi riuscissimo a far piegare il debito PIL perché cresciamo più del costo del debito, arriverebbero le solite termiti redistribuzioniste dicendo ma allora possiamo fare più spese e alleviare le sofferenze del popolo. Beh, ma anche quello da questo dire, questo bisogna tenerlo sempre in mente avendo l'idea che il QI tra poco sparisce. Beh, perché come rivedremo più avanti l'integrale del freno al tasso di crescita della spesa pubblica italiana, l'integrale equivale assolutamente alla quota di minore interessi sul debito grazie a cui lo 0,6%, punto. Una volta che quello finisce, quindi si riapre il problema. Per questo sarebbe meglio arrivare invece a una componente nominale che supera il costo del debito prima, perché almeno la politica non cade nell'errore che sta appena dicendo Mario. Sentite, dobbiamo aggiungere una questione sull'altra partita bancaria aperta nel nostro paese. Oggi c'è un'intervista di Renzi al Sole 24 Ore, durissima, molto lungo la parte che riguarda le due banche, dicendo è un attacco per trasferire asset dal Veneto, dal nord-est europeo, verso altri paesi. In Baviera. È un criterio che viene adottato per l'Italia che non viene adottato per i tedeschi, allora io dico che il governo italiano deve metterla così, cioè deve essere pronto al tavolo a dire non si fa quello che dice la Commissione Europea, si tratta della richiesta del miliardo aggiuntivo privato per coprire anche in quel caso tutte le possibili perdite, perché questa è la premessa che sta scritta nella regola per fare l'aumento di capitale precauzionale con l'intervento pubblico, e Renzi dice questo criterio non è quello seguito altrove e quindi bisogna essere durissimi. Che dici, caro Alberto? Dico che Renzi sbaglia a dare questi segnali. Renzi non può battere i pugni sul tavolo di una normativa che è italiana, ripeto, non è europea, è stata recepita dall'Italia. In realtà le Venete hanno bisogno di quel capitale per loro stessa missione. Ricordo che il Consiglio di amministrazione del 28 marzo ammette che c'è una carenza di capitale per garantire la continuità aziendale, quindi non è una cosa che ha stabilito l'Unione Europea, è una cosa che fa parte della stessa decisione delle banche. Ciò detto, posso dire, ogni forma di intervento fatto sulla minaccia del bail-in, ricordo che ieri sul Corriere della Sera l'amministratore legato di queste due banche ha fatto un'affermazione profondamente scorretta, dicendo che in caso di risoluzione verrebbe chiesto il rientro immediato dei fidi. Questo è l'esatto contrario di quello che succede. Questo è quello che succede quando si ritorna alla liquidazione quadro amministrativa, mentre l'articolo 59 della BRRD prevede esattamente che venga fatto l'ente. Io posso dire quello che penso assumendomi la responsabilità, siccome il dottor Fabrizio Viola è un tecnico finissimo, non si può neanche immaginare per un solo secondo che dica che una cosa di quel genere senza sapere quello che dice. No, chiaro. Allora quell'atto è gravissimo. Per me un banchiere nelle condizioni in cui sta Viola, che dice una cosa simile, deve andare a casa subito. Punto. Perché sta alterando in maniera significativissima la comprensione esterna di problemi delicati nell'attuazione di una norma europea che è chiara rispetto a banche che stanno in queste condizioni e che hanno autocertificato, come diceva Carlo certo. Alberto, la propria condizione. Quell'affermazione è di una gravità assoluta. Mi assumo la responsabilità. Però probabilmente è il famoso momento fate prestito, per cui che Viola cerca di spingere, diciamo. Comunque, su come ci si accingerà a tentare di risolvere il problema, perché voi avete letto sui giornali, da una parte che il governo, il MEF, chiede uno sconto, cioè meno di un miliardo di capitale privato. Dall'altra il governo ha fatto scrivere ai giornali più vicini a lui che si inventerà un meccanismo di garanzia pubblica a eventuali soldi privati. Il terzo canale è Poste Vita, mai e poi mai si può ricorrere a Poste Vita. Questo vabbè, vorrei già, che fosse chiaro. Fatto, c'è già la Presidente fatto. Che soffre, offre. Anzi, non solo l'hanno fatto, ma a bilancio del 2016 non hanno neanche postato gli accantonamenti che hanno fatto invece le altre banche. Quindi i nostri clienti sono ancora lì che pensano di avere un valore che non hanno. Vedremo, però anche noi vi segnaliamo che questa cosa per cui c'è il trasferimento di risorse verso la Germania dall'Italia sul miliardo dei privati per coprire le perdite future, visto che il tasso di peggioramento della condizione del credito deteriorato nel tempo non si è fermato, questa è una cosa che è una regola da rispettare. Però vedremo, noi non mettiamo giudizio. C'è una temperatura che si alza molto e naturalmente in campagna elettorale è complicato immaginare che ci saranno quali interventi. E oltretutto il 5 giugno, cioè lunedì, scade anche il termine per la presentazione delle lettere delle manifestazioni di interesse per Alitalia. Vediamo anche lì chi si candida a cosa. Rothschild da parte del governo ha avuto l'ordine di chiedere a tutte le compagnie del mondo, questo ve lo posso certificare che è così. Oggi chi di pano di Delta? Oggi pano di Delta, vedremo. Beh, di chi. Però questa è una buona notizia, perché aprire al mondo è importante. No, ma infatti ribadisco che mettere, va messo in vendita al 100%, questo è importante. Vedremo, perché queste sono le maggiori partite. Lunedì deve anche all'Italia, il governo deve decidere. Le banche, l'ILVA sono appunto le grandi partite. ILVA, Forza Calenda, che non vuole riaprire la gara, perché anche questo insomma, va detto, bisogna mantenere fede agli impegni. Torniamo tra un minuto. Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Eccoci qua, tornati in diretta in studio insieme a Oscar, Mario e Carlo Alberto. Ed è collegata con noi Veronica De Romanis. Grazie di essere con noi in questo sabato mattina. Grazie a voi, buongiorno. Allora, lo spunto tenendo sullo sfondo quello che è avvenuto questa settimana, cioè la lettera del ministro Padoan alla Commissione Europea in cui si dice no, niente 0,8, correzione solo 0,3, ed è la conferma dell'impianto tecnico che Padoan ha prestato con la sua autorevolezza e che secondo me lo rende il componente del governo Renzi e Gentiloni assolutamente più prezioso per loro. Senza di lui non avrebbero mai potuto ottenere tutta la flessibilità che hanno ottenuto. Quanta ne hanno ottenuto? Tanta. Basta ricordare il primo DEF del governo Renzi-Padoan, aprile del 2014, immaginava un deficit programmatico per il 2017 dello 0,4 di PIL, siamo, se va bene, al 2,2, la differenza fatela voi è 1,8, per i miliardi sono tanti, per l'anno prossimo non è l'1,2 del DEF uscito solo due mesi fa come obiettivo programmatico per il 2018 da parte dello stesso ministro, ma secondo lo stesso ministro, secondo l'output gap, su cui c'è una vicenda tecnica aperta fin dall'inizio con come si computa con l'Unione Europea, sarà l'1,8. Quindi se fate 1,8 più 0,6 sono 2,4 punti di PIL di flessibilità, cioè come lo vogliamo chiamare, maggior deficit libero. Anche oggi nell'intervista Renzi al Sole 24 Ore dice che l'austerità ha ucciso la ricrescita. Allora, il pregio di Veronica Romanes, oltre a tanti, è quello di aver appena scritto un libro che noi della Belva vi consigliamo calorosamente di leggere, Marsilio Editore. Il titolo è L'austerità fa crescere quando il rigore è la soluzione. E in questo libro trovate il riepilogo di tutti gli interventi sulla finanza pubblica dei maggiori paesi, e fa bene apprendere che ci sono paesi che crescono a tassi tripli del nostro, che hanno fatto correzioni molto incisive, no? La Spagna ha ridotto del 6% sul PIL il deficit, e lo ha fatto per il 5% su 6 con minor spesa, mentre le entrate erano solo uno dei 6 punti del raggiustamento. Vedete la Spagna come corre, e così via. Ha poi il merito, tra l'altro, di riepilogare come risposta a tutti coloro che dicono che l'Unione Europea è grifagna e non ha strumenti cooperativi, il totale degli aiuti dati negli anni di crisi post 2009 e post 2011 ai paesi europei, oltre 600 miliardi di euro, 330 in tre soluzioni alla Grecia, 85 all'Irlanda, 78 al Portogallo, 100 miliardi alla Spagna per le banche, poi ne hanno usati una quarantina, 10 miliardi a Cipro, e spiega perché c'è un'austerità buona, quella che si fa sulla spesa, e una cattiva, quella di cui di solito la politica si riduce, come ha fatto in Italia, aumentando le tasse. Gli effetti sono completamente diversi. La colpa non può essere attribuita all'Europa, perché i mix di intervento sul bilancio sono decisi a livello nazionale. Ripetete con me, nazionale, non caro Renzi, decisi dall'Europa. Allora, sintesi probabilmente forse un po' polemica, mentre Veronica De Romantis la preferirebbe più istituzionale, che dice? No, sintesi perfetta. Volevo aggiungere, siccome lei ha fatto riferimento all'intervista di Renzi, quando parla di austerità parla addirittura di austerity, cioè usa un nome in inglese, forse per rafforzare l'idea di qualcosa che ci viene imposto dall'esterno, qualcosa al di fuori dalle nostre scelte. Come diceva giustamente lei, Giannino, l'austerità si fa perché è il frutto di decisioni nazionali. Allora, i paesi che hanno chiesto l'aiuto all'Europa, ricordiamoci che l'Europa siamo noi, cioè noi stati europei, noi per esempio dei famosi 600 miliardi ne abbiamo pagati 60, e questi hanno aumentato il nostro debito pubblico. Allora, i paesi che hanno dovuto chiedere aiuto è perché per tanto tempo hanno vissuto al di sopra dei loro mezzi, ad un certo punto i mercati finanziari non si sono più fidati, hanno chiuso l'accesso e hanno smesso di prestare, hanno smesso di comprare debito pubblico. Questo è quello che è successo alla Grecia. Ed è chiaro che a quel punto questi paesi si sono rivolti ai partner europei, anche a noi, e noi abbiamo prestato dei soldi in cambio di condizioni. Queste condizioni sono ciò che nel dibattito pubblico è stata chiamata austerità, ma non si tratta altro che di responsabilità, cioè in poche parole io ti presto i soldi, però tu ti devi prendere un impegno che farai quelle misure che non hai fatto fino ad oggi e rimetterai a posto i conti in modo tale che potrai rimborsare il proprio debito. Poi ci sono altri paesi come l'Italia, la Francia, che non hanno avuto chiuso l'accesso ai mercati perché non era una situazione così disastrosa, ma che hanno dei mercati che guardano il nostro debito pubblico, che tendono ad essere nervosi e che dovrebbero fare degli interventi. Noi invece cosa abbiamo fatto negli ultimi anni? In realtà non abbiamo fatto altro che aumentare il nostro debito pubblico, quindi l'austerità, anzi l'austerity di cui parla Renzi, in Italia non c'è mai stata, anzi non solo la spesa pubblica è stata espansiva e ce lo dicono i dati, se noi andiamo a guardare negli ultimi 2 anni la spesa pubblica è aumentata di quasi 3 miliardi, 4 miliardi. Quello che noi abbiamo tagliato la spesa più produttiva, cioè gli investimenti. Dal 2014 al 2016 gli investimenti per esempio si sono ridotti di quasi 2 miliardi. Anche mentre l'Unione Europea ci consentiva la clausola di maggior deficit per gli investimenti. Esatto, in più noi siamo il paese che più abbiamo ottenuto flessibilità e questo deve essere chiaro quando si dicono queste regole sono stupide, sono severe. In realtà, come dice Mario Draghi, nelle regole c'è tutta la flessibilità possibile e infatti noi l'abbiamo ottenuto. Però è chiaro che questa flessibilità, come diceva lei, serve, avrà un impatto sul disavanzo, quindi sul debito. Per evitare ciò, la flessibilità deve essere utilizzata in modo tale che l'impatto sia sulla crescita, in modo tale che si può mettere in atto un circolo, diciamo, virtuoso. Io spendo di più oggi in investimenti, per esempio, aumenta la crescita e questo mi fa ridurre il disavanzo e quindi poi il mio debito. Se io invece questa flessibilità la utilizzo per spesa corrente, quindi per spesa che non ha un impatto sulla mia crescita, l'effetto finale non sarà altro che un maggiore debito. E questo debito, bisogna che sia chiaro, e l'ha detto il governatore Visco 2 giorni fa, non è una roba così astratta, anche quella imposta dagli altri, che non ce ne importa nulla, che mi sembra che i politici non nominano mai la parola debito. È un fardello che noi stiamo mettendo sui nostri giovani che già faticano a trovare lavoro. Quindi ecco perché l'austerità, per esempio, in un paese come la Germania, non esiste neanche come parola. Lì la parola è responsabilità, la responsabilità della politica di utilizzare le risorse dei contribuenti e soprattutto nei confronti delle prossime generazioni. Oggi a me sembra che alcuni politici, purtroppo molti, utilizzano lo stop all'austerità perché per loro venir meno della leva della spesa pubblica significa il venir meno di una possibilità di avere consenso immediato. Ecco perché spesso l'austerità cattiva è preferibile dal punto di vista di un politico, perché è molto più facile aumentare le tasse con un tratto di penna piuttosto che andare a ridurre le spese, che significa andare a negoziare con centri di potere organizzati, e lì si perde consenso politico. Io ho l'impressione che conti anche un fattore politico, cioè non credo che sia un caso che i leader politici capaci di fare quella che lei chiama l'austerità buona, cioè quella che interviene sulla spesa e non aumentando le tasse per correggere i saldi, appartengano nella realtà, se uno va a vedere Mariano Rajoy in Spagna, se uno va a vedere David Cameron in Gran Bretagna, David Cameron ha come suonore terrificante sul referendum, cioè Brexit, però spesa pubblica da 48,8 a 42,9, cioè stiamo parlando di una roba incredibile in termini italiani. L'odiatissimo commissario Dombrovskis, il lettone, in Italia considerato una specie di nazista. Esatto. Quando era giovanissimo ministro e poi premier del suo paese, ha fatto scendere la spesa pubblica dal 44,7 al 37% del PIL. Ecco. Però sono tutti esempi, però, dei leader politici De Romanis, non so se sia casuale secondo lei, c'è una parte politica che si è riconosciuta in questa aspra strada, significa mettere in conto scontri con lobby, interessi, l'ha detto lei appena, perché è più facile per un politico alzare le tasse che mettersi ad aggredire in maniera così significativa la spesa. Il problema è che in Italia, nella parte di centrodestra, moderati, merkeliani, chiamiamoli come vogliamo, non esiste questa opzione, purtroppo. Sì, tra l'altro lei citava il caso della Lettonia e Dombrovskis, che è un paese piccolo piccolo, è chiaro, però ricordiamoci che l'aggiustamento severissimo, molto più severo di quello che fu fatto in Grecia, tra l'altro in tempi molto più brevi, fu fatto quando il paese era fuori dall'Unione Monetaria, esatto. Quindi è stato ancora più doloroso perché l'obiettivo era ovviamente entrare nell'Unione Monetaria. E una volta entrati, in quanto membro dell'Unione Monetaria, e però un paese ancora non ricco come altri, ha dovuto partecipare per esempio al salvataggio della Grecia, quindi ecco di nuovo la responsabilità. Quando si fa parte di un'Unione Monetaria e ci sono paesi che non rispettano le regole, però vengono a chiederti aiuto, questo aiuto viene fornito non solo dai paesi grandi, ma anche dai paesi più poveri, quindi si crea una situazione paradossale in cui i più poveri aiutano quelli che hanno fatto la bella vita. Ecco chi dice che l'Europa non è stata solidale, non è assolutamente corretto. Mente sapendo di mentire. Torniamo tra un minuto. Esatto. Tra... Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte e fino alla morte l'Italia pagò. Sì. I conti della Belva. Eccoci qui tornati con i compari dei Conti della Belva. Stiamo parlando di un libro che vi consigliamo caldamente di leggere, L'austerità fa crescere, quando il rigore è la soluzione. Marsilio Editore, Veronica De Romanis, l'autrice che è con noi. Adesso due obiezioni, una di Carlo Alberto e una di Mario, per non fare la parte di chi se la suona se la canta. Perché Veronica non è che vieni da noi e te la cavi così facile, no? Allora, fa una prima obiezione sulla natura fondamentale in tempi di difficoltà del concetto di spiazzamento, cioè del fatto che quando lo Stato spende disincentiva i privati a farlo. E sono due nature dello spiazzamento che dobbiamo discutere, poi magari Mario interverrà. Una sulla spesa dei consumi e l'altra su quella degli investimenti. Ora io mi riferisco soprattutto a quest'ultima, cioè un crollo degli investimenti privati del 25, quasi 28% in questi anni è un buco colossale che è ovvio che compromette sicuramente la crescita. Ora io ti chiedo, e ovviamente fammi fare il keynesiano 30 secondi, se c'è una ragione che anche un liberale accetta per cui lo Stato possa spendere, proprio nel caso di sciopero degli investimenti privati. Sì. In questo senso, scusami, perché tu sostieni che l'austerità fa crescere, Veronica? Beh, io lo sostengo, sugli investimenti arrivo subito, lo sostengo perché lo dicono i dati, come diceva prima Oscar Giannino, lì dove la spesa è stata tagliata. Attenzione, austerità non significa tagliare, punto, significa tagliare e ricomporre la spesa pubblica. Facciamo l'esempio per esempio della Germania, quando la Germania era la famosa malata d'Europa e stava molto peggio di quanto stiamo noi oggi, nel 2003, la Germania fece una cosa molto simile a quello che abbiamo fatto noi negli scorsi anni, ha chiesto più tempo, all'epoca non si chiamava flessibilità, insomma chiese più tempo, 2 anni in più per rispettare le regole, perché stava facendo le riforme. Schröder fece le riforme, poi le perse, questo perché bisogna avere il coraggio, molti politici, come dice giustamente Juncker, noi sappiamo cosa dobbiamo fare ma non sappiamo come vincere le elezioni quando le abbiamo fatte. Lì Schröder ebbe il coraggio politico di dire io faccio quello che è necessario per il paese e poi se esco dalla scena politica questo è un altro discorso, però in realtà ha messo il paese in sicurezza. Poi ha vinto la Merkel, è stata la Merkel a fare l'aggiustamento fiscale. Quando la Merkel ha fatto l'aggiustamento fiscale ha riportato il paese dentro il 3% e fino al pareggio di bilancio nel 2007, lo ha fatto non tagliando in maniera drastica, ha per esempio lasciato e anzi aumentato dei comparti di spesa molto importanti, quello della sanità, salute, l'istruzione che è molto importante in Italia, quindi investimenti in capitale umano, in Germania volevo dire, e l'altro comparto è quello della ricerca e sviluppo. Quindi l'austerità non è collegata a un taglio degli investimenti, questo l'abbiamo fatto noi, perché di nuovo, e qui c'è una scelta politica, è come sulle spese, aumentare gli investimenti pubblici è un qualcosa che avrà un effetto magari fra 2, 3, 4 anni e spesso i politici non vedono l'effetto subito, non c'è, politicamente è meno allettante che aumentare la spesa corrente, cioè se io oggi ti do un bonus di 80 euro tu ce l'hai subito in busta paga, se io invece faccio un investimento in nuove tecnologie magari lo vedono i tuoi figli. Ecco la differenza tra una politica che ha una visione corta e una visione lunga. Ecco perché io penso che l'austerità sia veramente la vera grande riforma, cioè che non significa tagliare, non significa qualcosa imposto dagli altri, ma significa una gestione di responsabilità e di lungo periodo delle risorse degli, dei contribuenti, soprattutto guardando alle future generazioni. Qui rientra, secondo me, il tema degli investimenti, che lo ha denunciato, hai ragione Carlo Alberto, anche il governatore Visco. Noi negli ultimi, dal prima della crisi, abbiamo perso il 30% in termini di investimenti, ma questo si è visto anche sul PIL. Infatti noi non abbiamo ancora recuperato il livello pre-crisi, mentre la media dei nostri partner europei ha recuperato già del 5% il livello del prodotto di prima della crisi. Mario. Sì, no, io più che una domanda, una constatazione. Sono d'accordo su tutto quello che ha detto Veronica. Io diciamo punterei il dito anche sul fatto che quando c'è un grosso buco di domanda aggregata, come è successo all'Italia, non si può giustificare l'austerità, cioè il taglio di spesa, con l'effetto di spiazzamento. Voglio dire, non è che lo Stato, quando c'è un buco di domanda aggregata, sottrae, no, i capitali che sarebbero disponibili al settore privato, perché questa è una sciocchezza, però l'abbiamo letta, ovviamente non lo dice Veronica, l'hanno detto altri con altre motivazioni. Il punto vero nostro è che quando si è passati attraverso una crisi che ha creato un crollo del 25% degli investimenti, bisogna indagare sul perché il settore privato si è frantumato in questa maniera. Eravamo, come dire, nella parte bassa della catena del valore aggiunto? Abbiamo avuto un eccesso di investimento in costruzioni che poi è scoppiato e ci è arrivato in faccia? Ma soprattutto, che tipo di efficacia ed efficienza ha l'investimento pubblico in Italia rispetto che in altri paesi? Perché questo è il discorso. La Germania, quando pianifica un aumento dell'investimento pubblico, fa una valutazione, un'analisi di impatto, un'analisi di costi-benefici. Noi siamo capaci, oltre che di ammazzare in culla la spesa per investimenti per non riuscire a comprimere la domanda e la spesa corrente, noi riusciamo a buttare via i soldi in opere pubbliche. Quindi non so cosa pensi Veronica, però io credo che per noi il post mortem di questa crisi vorrà dire capire perché questo paese ha una programmazione di intervento pubblico sugli investimenti così scadente, perché non è sufficiente dire tagliamo la spesa pubblica e qualcosa accadrà. Che dice Veroni? No, sono d'accordo. Guardi, nella definizione di austerità buona, austerità cattiva, che è di, del presidente della BCE, di Mario Draghi, quando definisce l'austerità buona, la associa sempre a un percorso di riforme. E questo all'inizio in Italia, diciamo all'inizio, parlo del governo Renzi, negli ultimi 3 anni, c'è stato, c'era l'idea di una riforma al mese, quindi di cambiare il modello di sviluppo. Poi questo slancio, diciamo, si è interrotto perché siamo in perenne campagna elettorale, lo stiamo vedendo anche oggi, e poi se vuoi diciamo due parole sulla lettera di Padoan, che secondo me è il frutto della campagna elettorale. Comunque, per utilizzare bene i soldi pubblici negli investimenti è chiaro che ci vuole anche un contesto, quindi un settore pubblico che deve funzionare, deve poter agevolare, bisogna utilizzare questi soldi in maniera efficiente, bisogna evitare gli sprechi. Ecco, questo forse è venuto a mancare con una riforma della pubblica amministrazione che a mio avviso è stato deludente. Brava, quello è il rigore, non è solo rigore finanziario, c'è un rigore dello stato di diritto, delle procedure, delle gare, che purtroppo è fondamentale. Sì, vorrei fare una minuscola associazione. Quando noi parliamo di utilizzo rigoroso delle risorse, quindi si va a ridurre lo sperpero e le inefficienze, questo è anche un modo per depotenziare l'argomento dei populisti. Ecco perché io sostengo che chi dice che l'austerità ha portato il populismo sta dicendo una cosa non corretta. È il contrario. Nei paesi dove i partiti populisti sono stati arginati, sono i paesi dove i governi hanno fatto un'operazione di verità e, facendo un'austerità buona, hanno ridotto lo sperpero e l'inefficienza delle risorse pubbliche, e in questo modo hanno depotenziato i populisti, perché guardiamo noi in Italia. E hanno, hanno anche rivinto le elezioni, perché è successo in Olanda, nel Regno Unito, in Svezia. Certo, uno degli argomenti per esempio dei 5 Stelle, soprattutto all'inizio, era proprio quello dello Stato inefficiente, delle risorse dei cittadini, dello sperpero in mille rivoli, eccetera. Bene, mettiamo a posto i conti, facciamo vedere che noi invece abbiamo, se io fossi parte della politica diciamo tradizionale, è così che si combattono il populismo non si combatte con maggiore flessibilità, e noi questo film l'abbiamo già visto. Quando abbiamo ottenuto i 20 miliardi di flessibilità di cui parlava Oscar, Due mesi dopo, 5 Stelle si è affermato alle amministrative, conquistando città come Roma e Torino. Quindi vuol dire che quando si fanno iniezioni di spesa pubblica non è un modo per arginare 5 Stelle o i partiti, diciamo, antisistema. Io, infatti, questo si è visto anche con la Le Pen. Apprezzo molto che lei nel libro dica ci sono due maniere per dire la stessa cosa: quella dei partiti antisistema, cioè dagli Jung per i 5 Stelle al Tenente Fur Deutschland, che però ha cambiato natura, adesso è diventato razzista e non anti-europeo, anti-latino, che naturalmente usano il termine chiaro, brutale, no? Delle regole. Poi ci sono gli altri, i partiti tradizionali come il PD e Renzi, che in realtà però dicono la stessa cosa, anche se con un linguaggio diverso. È un giudizio politico tagliente il suo, eh? Quello è un rincorrere politici, cioè quando i 5 Stelle dicono basta, eliminiamo il fiscal compact, alla fine è una posizione molto più forte di chi dice miniamo le fondamenta Europa, sì, tutti i giorni, va bene. Europa sì ma non così, insomma, va bene, allora purtroppo il tempo è scaduto, leggetelo questo libro di Veronica De Romanis. È chiaro che noi non ci doveva convincere a noi, ma volevamo offrire una maniera non irritante come in altri fanno, facendo le domande irrisorie e irritanti oltre che irrisorio, per rilanciare questo tema di cui siamo. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS. E in video su radio24.it e su rds.it. Fratelli d'Italia, l'Italia alle mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò, sì! I conti della Belva. Ed eccoci tornati qui, cari compari, in studio Mario, Carlo Alberto e Oscar Giannino. E questa settimana, tra le tante cose avvenute, abbiamo avuto anche, ne stiamo parlando adesso, l'esordio di un presidente francese all'inizio di Telecom Italia. De Puy Fontaine, esattamente, la prima volta che il più grande investitore privato italiano, che è Telecom Italia, TIM, ha una presidenza francese. Abbiamo certificato ufficialmente a questo punto, sia a livello italiano che a livello europeo, che c'è il controllo. Però hai visto che i giornali italiani non sono insorti. No, non sono insorti. È strano. E Kuga, a me non sembra una cattiva notizia. Com'è strano? No, devo dire, non è, non è strano. Ah, non è strano. Perché tu non devi è strano capire. Ah, sì, scusami. Che io quella ormai presidenza, diciamo, che come si equilibra rispetto alla vicenda Vivendi? Fininvest, io volevo fare una discussione Mediaset industriale, cioè dicendo che finalmente come in Italia viene presentato, abbiamo cacciato campo dall'orto, abbiamo una situazione in cui andiamo in campagna elettorale con Rai e Mediaset, diciamo probabilmente in rotta di convergenza totale. A me sembra importante che per il bene del dibattito di questo paese ci siano attori media diversi, ma oltre a questo, che comunque è una cosa su cui torneremo più avanti nelle nostre appuntamenti a giugno e sabato, noi ci siamo sempre, non credete, ci siamo sempre anche a luglio. Oggi vuole parlare di calcio, ma Oscar, che è un torinista infame, non mi consente di parlare del business. Ma non è vero. Stasera c'è una cosa importante. Ma sì, lo so, scaramanticamente, siccome tifiamo tutti Italia. Io parlo di economia del calcio, è importante. Ne parleremo, okay. Vedrai, perché a seconda di chi vince non è proprio così secondario rispetto al sistema italiano. Il sistema italiano, sto parlando. Ma è per quello che dico a voi buffacci torinisti che bisogna tenere per i gobbi, almeno stasera. Ma non via. Sto dicendo no, voi infatti siete dei gufi. Dei gufi. Noi abbiamo alla guida un presidente che ha ammesso questa settimana di avere tentazioni politiche e poi da ieri è cavaliere. Pure lui, quindi esatto. Possiede una televisione, un giornale, un cavallo, una squadra di calcio. Ci sono un cavaliere. Tutte le premesse, mio ci caro. Sono tutte le premesse. Esatto. Ecco, esatto. Quindi, grande urbanone. Aspetta, giudichiamo la campagna acquisti di quest'anno per vedere se, come è stato fino in tutti questi anni, grande merito Urbano Cairo, limitata e con il valore aggiunto, con le plusvalenze che ha aumentato sempre, una cosa non dire per far utilizzare, no, la squadra per fare politica, bravo, bravo. Se cambia segno invece diventa un altro interessante questione per capire. Però la Juventus con il suo progetto dello stadio ha concluso un itinerario molto importante, secondo me è un esempio come società, come non squadra via al cuore, ma come giudizio aziendalistico né un devo mistero dire, ecco, né un fatto negabile che come conduzione societaria, perimetro, tipi di revenues eccetera eccetera, è l'unico club società sportiva italiana, vogliamo dirlo, che è un pezzo d'eccellenza europeo, esatto, che abbiamo, esatto, delle caratteristiche e si tali merita di essere in finale da farlo brava entrare in, nel novero delle società, sto parlando dal punto di vista societario e finanziario. Guarda che storcere queste cose un torinista infame come Oscar è dura, è molto dura. Noi ci accontentiamo di essere tornati col crowdfunding al nostro Philadelphia, questi invece pensano giustamente. Allora, ma al di là di questo, dicevo, questa settimana c'è stato, nelle considerazioni del governatore della Banca d'Italia, un passaggio che è relativo proprio al problemino dei problemini. Il problema dei problemini per me è la bassa produttività italiana, ve lo dico da anni, più ancora della finanza pubblica, perché se non si risolve quello, un paese iperindebitato non risolve neanche la sostenibilità della finanza pubblica. Ma al di là di questo, in linea con quello che dicevamo con Veronica De Romanis, il problema diventa, e con quello che diceva Mario all'inizio, ricordate sempre la regoletta PIL nominale costo del debito pubblico, come si fa a far diminuire il debito pubblico nel nostro paese? In settimana il governatore ha detto, ma insomma accontentiamoci pure e siamo realisti di un orizzonte di crescita decennale non superiore all'1% anno e di un l'indicatore dei prezzi al consumo del 2%, e basta andare al 4% e qualche cosa 4% di avanzo primario per 10 anni e la diminuzione è significativa. E che c'è voi? Oscar, 4%. Esatto. Io la media già siamo all'1,5 attualmente. Devo dire vogliamo spiegare cos'è l'avanzo primario? È la differenza fra quanto lo Stato incassa quello, e spende, spende, e quindi tutta quella differenza ce la mettono i soldi dei cittadini, vorrei ricordarlo, esatto, ecco, esatto. A meno di non stampare. E sono 20 anni che noi abbiamo avanzi primari che deprimono l'economia, ma siccome non cresciamo, siamo cresciamo dal verbo to crash, no? Quindi siamo condannati a fare avanzi primari che deprimono l'avanzo l'economia. Primario è ripagare i debiti dei padri, vogliamo dirlo, togliersi del sangue, ma non era la flessibilità quella? Allora, devo dire che uno dei meriti di Veronica De Romanis è anche quello di dare un giudizio implacabilmente severo e secondo me giusto sul governo Monti. Col governo Monti l'avanzo primario ripassò dall'1% dove si era ridotto con Berlusconi e Tremonti al 3,7%, ma praticamente tutto per via fiscale. Quella è l'austerità pessima della verità, e questo è un giudizio che pesa con tutti i limiti che aveva come governo tecnico, come sostegno ai partiti, l'abbiamo sostenuto mille volte, il governo Monti, quello era un errore. Però il governatore ha indicato quella strada. Secondo me è una strada di asfissia permanente, lo dico da anni. Io credo invece che occorra una strategia completamente diversa sulla spesa e sul fisco, identificando ciò che fa crescere il paese, avendo chiaro in mente la matrice input-output. Occorre anche una manovra straordinaria sul debito, me ne sono occupato anni fa, credo che la politica ci stia riservando una finta intervento sugli immobili pubblici, vedremo in campagna elettorale, credo che il PD stia preparando una roba di quel genere di cui io sono molto diffidente, vi dirò quando esce però perché è sbagliato parlarne prima. Questa settimana però è uscita anche un'altra proposta che aggiorna un filone sempre presente, perché c'è sempre stato chi ha anche detto ragazzi, quello che proponete voi su gli attivi dello Stato non è credibile come manovra straordinaria, la via del surplus primario per decenni a tassi così elevati di PIL ogni anno è l'asfissia, e quindi bisogna ricorrere a il patrimonio degli italiani, che poi come tutte le patrimoniali significa pagarla con il reddito anno per anno, quindi questo poi è l'effetto che si scatena nei conti economici. Tutte le patrimoniali si pagano con i redditi, esatto. No, ma ricordiamocelo sempre, i proponenti di solito non lo sanno o fingono di non saperlo, non lo so se lo sa, però, no, a parte i prelevini sul però, conto corrente che sono allora, comodi, sì, ci riferiamo a un pezzo uscito sulla voce.info il 31 di maggio, quindi lo trovate lì, e il titolo era proposta un patto fiscale per ridurre il debito pubblico e rilanciare l'Italia, ed è con noi il suo autore Carlo Milani, che è un economista, direttore di IBM Research, che è una startup nel campo dei big data, tante altre cose, quindi è un economista tra virgolette di consolidata, per così dire, professionalità. Buongiorno e grazie di essere con noi. Come le è venuta in mente questa idea? Buongiorno, innanzitutto grazie per l'invito. Devo aggiungere prima cosa che la proposta è stata fatta insieme a Gabor Friedenthal, quindi non sono soltanto io giusto proponente. E poi la correggo, non è sulla voce.info ma su Econopoli. Verissimo, verissimo. Sono io che sono rimbambito. No, non ci mancherebbe. Fate no, no. Queste piccole correzioni. No, la proposta ci è venuta in mente perché in realtà, come diceva lei in apertura, la valorizzazione del patrimonio immobiliare in questi anni appunto si è verificata non molto efficace. Lì devo dire ci sono già essenzialmente dei problemi soltanto nel sapere quanto è questo, effettivamente questo patrimonio immobiliare, che valore ha e quale effettivamente si può immettere sul mercato, che lì ovviamente c'è il problema che non possiamo immettere sul mercato scuole, ospedali o anche edilizia popolare occupata da soggetti che non hanno la possibilità di eventualmente riscattare l'abitazione. E in ogni caso qui probabilmente la stima più recente, più accurata è quella di Reviglio di Cassa Depositi e Prestiti, in cui dava come valore dell'immobile circa 40 miliardi di euro potenzialmente liberi da poter essere immessi sul mercato, quindi comunque appena il 2,5% del PIL, non tantissime risorse a cui ci possiamo aggiungere eventualmente partecipazioni per una grandezza eventualmente anche lì intorno ai 40 miliardi di euro, quindi grosso modo non abbiamo molte risorse da qui attingere. Quindi io ripeto, su questo non sono molto d'accordo, però non è il caso di approfondire oggi. Quando rifaremo un ragionamento sugli attivi pubblici, lo rifaremo, perché la questione di limitarsi all'aggredibile è la maniera con cui la politica non l'ha mai fatto. Altra cosa è immaginare uno o più veicoli specializzati incardinati su un diritto non italiano, altrimenti non vengono i players mondiali, che cambi marcia innanzitutto sulla gestione, perché quella gestione è negativa, proprio negativa, ma per miliardi e miliardi l'anno. Secondo, che si finanzi con emissioni di titoli che corrono anche il rischio, se è molto ben fatta, di spiazzare i titoli del debito pubblico italiano, tra l'altro, ma con obiettivi di cessione chiari nel tempo. Dopodiché le amministrazioni si efficientano e a quel punto non è che siccome hanno un palazzo lo hanno a vita. Però questo è un altro problema, diciamo così. La realtà italiana dà ragione a lei sugli attivi immobiliari, sappiamo che sul quotato non c'è poi molto rispetto alla montagna del debito pubblico da cedere. Ma di qui a dire facciamo un intervento sulla ricchezza degli italiani. Allora, tornerò un po' un attimo sul punto del valore del patrimonio. Comunque l'idea è quella di fare, è comunque una proposta articolata, non va letta soltanto come una tassa sul patrimonio, perché è una tassa sul patrimonio in cui contestualmente, e sottolineo contestualmente, vada associata una riduzione del carico delle imposte. Infatti è questo che mi ha colpito. Sulle famiglie. Sì. Riduzione IRPEF, IVA o combinazione dei due. Quindi primo elemento, appunto, introduzione di una patrimoniale, escludendo però il capitale ad uso delle imprese, quindi andrebbe a vertere esclusivamente sulle abitazioni delle famiglie, che noi stimiamo con un valore catastale di circa 2.000 miliardi di euro, e poi sulle attività finanziarie, quindi depositi, titoli di Stato, fondi comuni, e altre obbligazioni private, per altri 2.000 miliardi di euro, per arrivare appunto a 4.000 miliardi di euro. Quindi e quindi con un'aliquota del 5% sarebbero 220 miliardi. Perfetto. Questi 220 miliardi andrebbero utilizzati interamente per riacquistare titoli emessi sul mercato, ovviamente andando a cogliere quelli con i tassi più alti emessi negli anni passati, quindi queste operazioni cosiddette di buyback. E l'effetto sarebbe di una riduzione del PIL dal 133% del debito rispetto al PIL dal 133% al circa il 120%, con il vantaggio di farci risparmiare in termini di tassi di interesse, secondo le nostre stime, sia perché ovviamente si riduce lo stock, ma anche perché andremo a pagare meno sui tassi di interesse per il minor rischio paese, andremo a risparmiare circa 22 miliardi di euro di tassi di interesse passivi. E appunto questi 22 miliardi di risparmio, secondo la nostra proposta, andrebbero utilizzati interamente per ridurre il carico fiscale sul reddito, appunto sull'IVA. Secondo i nostri calcoli sarebbero sufficienti per ridurre di 3 punti percentuali tutte le aliquote legali sull'IRPEF, quindi ad esempio potremmo passare dal 23 al 20 fino al 41 e al 38%. E quindi, come dicevate giustamente voi in apertura, la patrimoniale poi si paga con il reddito, però secondo la nostra proposta il reddito disponibile al netto delle imposte dopo la patrimoniale comunque sarebbe più alto, darebbe un maggiore spiro per chi produce reddito. Va benissimo, abbiamo capito, spiegata così, spero che sia chiarissimo a tutti. Botta del 5%, stiamo parlando delle persone, in cambio però contestualmente di una riduzione pari a risparmio stimato sugli interessi del debito. Mario? No, io faccio fatica a seguire i numeri, perché passare dal 133 al 122% di debito PIL, professor Milani, lei pensa davvero che possa innescare questo crollo della spesa per interessi addirittura di 22 miliardi su 80, cioè del 25% di spesa per interessi in meno? Allora, la risposta a questa domanda dopo un minuto di traffico. Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Allora, imposta del 5% sul patrimonio immobiliare e finanziario delle famiglie italiane, gettito stimato 220 miliardi, però i 22 miliardi circa stimati di interessi in meno pagati dallo Stato, immediatamente tradotti in aliquote più basse. Sentite l'obiezione di Mario Seminerio, che dice Carlo Milani? Se ho tempo volevo concludere anche che ci sono altri due punti chiavi nella proposta, comunque rispondo sulla questione. La nostra stima si basa sulla relazione tra i tassi di interesse che pagano i paesi europei rispetto all'incidenza debito PIL, e abbiamo visto che la relazione in realtà è non lineare, quindi più riduciamo il debito e più il vantaggio sul risparmio dei tassi di interesse è ampio, e in particolar modo poi diventa molto conveniente più ci avviciniamo al 100%. Quindi noi stimiamo adesso che il costo medio del debito è di circa il 3%, se ci avviciniamo al 100%, quindi comunque se andiamo al di sotto del 120%, in realtà siamo leggermente al di sotto del 120% secondo la nostra proposta, il costo del debito secondo le nostre stime si potrebbe abbattere dello 0,8%, e quindi questo metterebbe in moto un buon risparmio appunto di questi 22 miliardi sull'intero stato. Quali erano gli altri due punti in sintesi? Gli altri due punti in sintesi è che ovviamente per essere credibile questa manovra, per funzionare, deve essere credibile, le famiglie devono accettare, fidarsi il fatto che lo Stato effettivamente poi riduca le imposte sul reddito, e questo secondo noi può avvenire soltanto se c'è qualcuno che fa da garante di questo patto, che può essere la Commissione europea. In questo caso invece, piuttosto che far da garante sul tema, un po' ritorniamo alla prima parte della vostra trasmissione sull'austerity, è quello di essere garante per la riduzione di imposte piuttosto che per l'aumento di imposte. E però l'aspetto importante anche che vorrei aggiungere in riferimento a quello che anche diceva lei, Giannino, è che il patto con la Commissione potrebbe anche includere privatizzazioni, quindi la nostra proposta non esclude il fatto che si possa andare avanti con le privatizzazioni con i tempi necessari. Potrebbe includere anche spend review, così come potrebbe non è che dite è l'unica tessera, esatto, c'è un mosaico, certo. Ma avanzate questa idea per questa tessera. Io temo che ci siano proposte, da quello che so sentendo la comunità di ricercatori e economisti intorno a Renzi e il PD, che ci sia una proposta in arrivo di cui spero che i presupposti vengano elaborati meglio, perché quella di cui ho sentito io non mi piace per niente sulla parte immobiliare. Allora, è con noi anche Fabio Scacciavillani, che è Chief Economist dell'Oman Investment Fund, editorialista del Fatto Quotidiano. Mi interessa la duplice veste di chi commenta i fatti dell'economia italiana, ma anche di chi li vede da quella posizione lì. Un intervento di questo tipo che impressione fa a Fabio Scacciavillani? Grazie di essere con noi. Ma grazie Oscar, saluto agli ascoltatori. Quello che mi fa ridere, diciamo così, di tutta questa faccenda è la contaminazione tra generi che viene operata su Radio 24. Dallo squirting celebrato sulla Zanzara, squirting vaginale, siamo arrivati allo squirting economico celebrato nella patrimoniale. Allora, io una serie di frescacce di questo calibro non le leggevo, penso, da almeno 20 anni. Questa proposta, cominciamo a mettere in chiaro, a fare un'opera di disinfezione semantica, perché quando si parla di patrimoniale la gente pensa, oh, il patrimonio, mica il mio, mica il mio risparmio, no, il patrimonio sarà lo yacht, saranno i castelli. No, il patrimonio, cari ascoltatori, sono le vostre case, sono il vostro conto in banca, sono il vostro conto titoli, sono il pezzetto di terra che vi ha lasciato il nonno, sono la quota del negozio. Quindi siete, quando si parla di patrimonio, si parla del vostro risparmio, non del risparmio di chissà chi. E oggi ancora è vivida la memoria del furto perpetrato da Giuliano Amato nel 92 sui conti correnti, che vennero depredati nottetempo, e qui si chiede di fare un'opera di questo tipo su scala molto più ampia. Allora, ammettiamo che questa faccenda vada in porto. Sì. Piglio il grafico 1 allegato alla proposta su Econopoli. Sapete qual è il vantaggio? Leggo, per le classi meno abbienti il risparmio sarebbe nell'ordine dell'1% del reddito disponibile. Questo secondo quanto scritto dal professor Milani. Cioè tutta questa roba consentirebbe alle classi meno abbienti di comprarsi un po' di gelati e forse qualche cornetto la mattina. A fronte di cosa? A fronte di una devastante, devastante perdita di fiducia di quel poco che è rimasto di classe media e di quel poco che è rimasto di risparmio in Italia, che oggi purtroppo fa gola a tutta una genia di statalisti, parassiti, politici e corrotti, perché sanno che l'unico modo per rimanere in sella questa gente è quello di aggredire il risparmio della classe media e anche della classe meno abbiente, perché le case non ce l'hanno solo i ricchi, le case ce l'hanno tutti. Prima casa 72%, l'ultimo dato aggiornato di Banca d'Italia. Esatto, una mazzata del genere sarebbe il colpo di grazia per l'economia italiana. E non è un caso che questo squirting è periodico. Da dove vengono gli episodi precedenti? Chi è che ha sollevato questa roba in passato? De Benedetti, perché sennò come si pagano i debiti di Sorgenia? Monorchio, altro gran commì dello Stato, ragioniere generale dello Stato, responsabile dei conti pubblici, responsabile dell'alta amministrazione, è tutta gente di questo tipo. Quindi quella, in queste proposte di attacco al risparmio degli italiani si saldano politicamente gli interessi degli imprenditori parassiti e della classe burocratico-politica che si sente franare il terreno sotto i piedi. Bene, diciamo che in termini di esplicita durezza e violenza gli argomenti di Fabio Schiacciolani sono chiari, però noi, caro Milani, io l'ho invitato Carlo Milani e gli sono debitore di un analogo spazio e rispetto, nel senso che io poi non immagino Carlo Milani come membro di questo allineamento di interessi. Che dice Milani? Sì, ho visto che la proposta è piaciuta. No, però noi abbiamo a Carlo che qualcuno vuole difenderti, adesso poi la gente vai. No, scherzo. Allora, no, quello che volevo dire, no, è interessante che Scacciavillani ha letto bene la proposta, perché ha detto giustamente che per le famiglie meno ambienti è un vantaggio la nostra proposta, secondo i nostri numeri. Magari si possono contestare i numeri, però se crede nei numeri stiamo dicendo che la patrimoniale in realtà, riducendo poi contemporaneamente il reddito, porta un vantaggio, quindi andrebbe fatta. Magari è piccolo il vantaggio, sono 120 euro per chi guadagna 12.000 euro l'anno, comunque non sono pochissimi. In ogni caso, l'aspetto interessante che va detto è che quando si colpisce il patrimonio in Italia, in realtà si va a colpire una fetta della popolazione molto ristretta, perché dobbiamo ricordare che il patrimonio è concentrato, il 20% delle famiglie italiane detiene il 60% del patrimonio complessivo. Quindi se è vero che la proprietà è diffusa, ma è anche vero che la proprietà del gran parte delle famiglie è di immobili di valore molto contenuto, mentre il gran parte del patrimonio è concentrata appunto su questo 20% di popolazione che ha un valore di mercato del loro patrimonio superiore ai 500.000 euro o superiore. Aspettami, però non devo dirlo io a lei, lo dico perché ricorderò chi è in ascolto. È vero però, dal punto di vista dell'attribuzione rispetto al valore complessivo, è vero che per gli altri, cioè per i decidi di reddito più bassi, loro hanno impegnato in un orizzonte trentennale una parte elevatissima del loro reddito disponibile, magari proprio per un'unità immobiliare più limitata per estensione e per valore, ma che però per loro non è diventata una fonte di reddito, ma una fonte di aggressibilità sempre crescente in questi anni già dallo Stato, e qui noi gli aggraviamo il conto. È anche vero questa cosa che dico io o no? Sì, infatti c'era l'ultimo punto della nostra cosa che le dicevo, è molto articolato, che per il patrimonio illiquido, quale appunto gli immobili o i titoli a lunga scadenza, nella nostra proposta prevediamo la possibilità di avere un finanziamento agevolato garantito dallo Stato, quindi in realtà questa patrimoniale poi si spalma negli anni. Che è un'altra cosa che a noi non convince, perché mentre ne è chiara la logica, visto che si colpiscono a asset illiquidi, ma dall'altra parte significa spostare di nuovo debito pubblico. Gente che ha degli attivi gli fa diventare delle passività, sia pure a tasso agevolato nei confronti dello Stato. Ma a me pare un film dell'orrore questo, scusi. No, in realtà, perché è più che compensato dalla riduzione sul reddito. Perché io riducendo il reddito, riducendo le imposte sul reddito, c'è uno che vuole difenderti. Pasqua, mi lasci parlare. Caro Alberto, certo, figurati se non ti lascio parlare. No, io sono d'accordo sulla logica di fondo. Non sono d'accordo sulla patrimoniale, sono d'accordo sulla logica dello spostamento. In che senso? Sullo spostamento della tassazione da patrimoni da redditi a patrimoni. Questo però andrebbe applicato non sui patrimoni dei vivi, ma su quelli dei morti, se non ti dispiace. Quindi, parlando di imposte di successione. Infatti, esatto, la che patrimoniale... sono reddito per gli eredi, ricordo, e non sono patrimoni, sono reddito per gli eredi. A questo punto, questa stessa logica, ovviamente magari commisurata, non va a toccare il debito pubblico, che purtroppo, secondo me, è un bubone che ci porteremo fino alla tomba, ma sicuramente incide immediatamente sullo spostamento dell'imposta sui redditi. Quindi, la stessa logica di Carlo, che a me non dispiace, l'applicherei soltanto limitatamente alle successioni. Va bene, io qui adesso devo chiudere. Io intanto ringrazio Carlo Milani, Fabio Scacciavillani, lo sentiremo spesso nei prossimi sabato. Avrete capito che noi non tifiamo patrimoniale, siamo per altre soluzioni del problema del debito pubblico, però questo non significa che questa idea aveva delle innovazioni dentro, non ci convincono molto, però bisogna parlarne con rispetto e apertamente. Grazie a Carlo Milani e Fabio Scacciavillani, noi torniamo tra un minuto con Udo Gumpel. Conti della Belva. Allora abbiamo infatti, lo dico apposta sulla tieni la musica feliniana, perché alcuni dei nostri ascoltatori non è sfuggita che, diciamo così, la colorita espressività di Fabio Scacciavillani ce lo segnalano come ospite fisso, ma noi tenteremo di farlo. Lo squirting effettivamente, lo squirting finanziario non è male, effettivamente. Sì, ecco, diciamo, ci stiamo attrezzando. No, io no, francamente non so voi, io non arrivo a questo, però comunque però. Commento dei nostri ascoltatori ci stanno. Le tasse a rate, no dai, per favore, no. Esatto. Ecco, vabbè. Comunque esistono altri modi del patrimoniale, però è noi un film dell'orrore, ci ripeto, io lo dico perché sono dell'idea di dialogare con rispetto anche con coloro che ce lo ricambiano, perché altrimenti non verrebbero qua, non ci augurerebbero cappottini di abete, anche quando le posizioni sono molto diverse, anche quando si fanno girare i numeri in modi che non ci convincono troppo. Ma cari ascoltatori, dai che votiamo tedesco, votiamo come i tedeschi. Adesso finalmente abbiamo il nostro, nel senso che votiamo amico anche gli stessi partiti, Udo, vero? Gumpel, sì, domani. Allora, non è quello il metodo tedesco. Udo Gumpel, grazie di essere con noi. Vi saluto dall'aeroporto di Francoforte, e tra poco mi imbarco per Roma, però ancora sono sul territorio germanico, ecco. Magari più autentico la mia idea. Senti, io ho due opinioni da chiederti, quindi amministrati nei tempi, perché la prima è chiederti che effetto ti fa vedere un paese che ammannisce i suoi elettori e con i giornali che fanno i titoli su un sistema tedesco che è fatto senza sfiducia costruttiva, quindi con una forma di governo che resta diversa da quella tedesca, e con non un doppio voto ma con un unico voto in cui prevalgono quelli delle liste fisse su quelli del collegio. Quindi io trovo fantastico la capacità oramai fantascientifica della politica italiana di manipolare le definizioni, però resta il fatto che poi passa così, e questa è la prima opinione. Però devo anche dirti che ti chiedo anche un'opinione poi sulla rottura COP21. A me piace molto che l'Europa stia vivendo questa cosa come una grande occasione. La Merkel è in prima fila a dare giudizi politici duri, e io credo, pur essendo un ambientalista scettico, che questa sia una grande occasione se ce la si sa giocare. Però partiamo da questo: siamo diventati col sistema tedesco in Italia oppure no? Che ci dici? Ma io penso che la Germania dovrebbe far causa a chi che ne so ha inventato il tedesco o tedeschellum, perché naturalmente ha poco a che vedere con il sistema tedesco, perché per due ragioni. Chi vince in Germania un suo collegio va direttamente al Parlamento, e un piccolo partito che per esempio vince tre collegi in modo diretto salta addirittura la soglia del 5%, perché magari è importante nella sua regione e dunque ha diritto a rappresentare la sua parte in Germania. Poi le liste, questo è molto importante. In Germania lei può votare disgiuntamente, può votare il politico A perché la convince nella circoscrizione. Scusate, sono qui all'aeroporto, se sentite gli annunci, sì. No? Allora, lei può fare un voto disgiunto, che è molto importante, perché lei può dire: io il politico non mi importa niente, ma la persona X del collegio mio mi convince, allora voto quello. Mentre così come appartenenza, come idee, voto il partito rosa, giallo, a strisce blu, allora nel voto di lista. Questa è già una cosa importante. La seconda cosa importante, che si naturalmente sorvola completamente sia Guerilini che PD che tutti gli altri, è che le liste stesse e la posizione dei singoli politici sulla lista che ha una chance, no? Non sono in collegi corti 3-4, non c'è nessuna garanzia, ma viene fatto stilato da congressi degli iscritti a scrutinio segreto. E lì abbiamo visto in Germania sempre tante sorprese, ovvero i 500.000, 600.000 iscritti ai socialdemocratici, i 600.000 democristiani sociali, liberali, verdi, AfD pure, eleggono a scrutinio segreto i loro candidati. Dunque nella scelta del partito c'è fortissimo l'elemento democratico, come voi ben sapete. Dal 67 in Germania questo è obbligo, 67 ho detto 6-7, no? Dunque, ah, quindi non usate i click su internet con 15 o 16 click si candida al Parlamento? Strano, ma siete indietro, noi siamo avanti in Italia, usiamo le tecnologie. Naturalmente, siete avanti, perché 15 click sono già un progresso, perché se pensiamo alla scelta dei candidati, e lo facevano in altri partiti, da Berlusconi a Renzi precedente, Bersani che tanto si è lamentato della mancanza di immagine in due persone, no? Un capo dell'opposizione interno. Fai bene, Udo, a ricordare che questa partecipazione, voto segreto per fare liste di partito, è una distanza anni luce, certo, rispetto alla politica italiana e ai nominati dei segretari dei partiti. Allora questo è fondamentale anche per garantire la democraticità. Io ripeto, democraticità, si può anche fare lo spelling, no. Della scelta dei candidati, non deve essere callato dall'altro. Allora, in Germania è stato purtroppo, dico io, ancora più rafforzato questo sistema della proporzionalità, perché fino alla ultima legislatura si poteva avere anche un certo sovranumero del partito relativamente più forte, che perché vinceva molti candidati diretti, no? Dunque in percentuale era più forte. Ora c'è una correzione nella lista dei partiti che hanno vinto meno candidati nei collegi diretti, loro hanno più seggi nella lista dei candidati. Però può succedere che un partito, mettiamo la Merkel, che se vincesse, in pratica essendo il partito relativamente più forte, tutti i seggi diretti, non avrebbe quasi più nessuno dalla lista del partito, capito? Proporzionale, cioè, certo. Lì è la lista proporzionale, no? Dalla certo. lista partitica. Perché, però questa è anche un'ottima cosa, perché significa che chi è eletto dal collegio rappresenta molto di più il collegio che il partito, anche in virtù di questo voto disgiunto. Abbiamo sempre avuto candidati che erano molto forti perché erano riconosciuti nel loro collegio, non erano scelti da 15 clic, ma erano personaggi importanti di quella regione, di quella zona, che potevano avere anche il voto degli altri, capito? Cioè, questo è molto importante e disgrega un pochettino, disarticola questo legame tra candidato e partito. Io credo che questo sarebbe stato, naturalmente in Italia non lo volevano fare per le ragioni per le quali io, no, chiaramente. Ovvio, quindi, ma... quindi è furto di proprietà intellettuale, ma possiamo sì, dire, ma chiamare no, questo tedesco. Ma la fede allo Stato. Ma fede, è bravo, diciamolo, È un pacco da parcheggio dell'autogrill, proprio esatto. Una cosa molto italiana, diciamo. Mi dispiace che però l'informazione su questo regga il gioco, perché come si vede in 3 minuti Udo Gumpel, no, prendere nota, cari colleghi, spiegare come funziona il rapporto tra iscritti ai partiti e voto segreto nella redazione delle liste, quelle proporzionali dei partiti, ecco, spiegare che il voto disgiunto lì c'è, qua no, qui prevarrà, secondo quello che si legge, ciò che viene deciso come voto proporzionale su quello di collegio e così via. Qui si usa lo sbarramento come una scimitarra antipolitica invece che come una tutela detto della questo, rappresentanza invece, federale. Rapidamente, l'impressione di Udo sulla risposta tedesca ed europea all'addio di Trump alla COP21 ti convince? Io credo che è stato un passo fondamentale, che la Merkel che ha rotto in un certo senso questo patto sottostante anche sul personale che vale da 67 anni in Germania, ovvero siamo sempre i più fedeli alleati degli Stati Uniti. Adesso la Merkel ha assolutamente fatto capire che degli Stati Uniti restiamo alleato di ferro, però non del signor Trump, perché il signor Trump, questo potos, sta evidentemente vivendo il mondo come una lotta tutti contro tutti. Questo è il suo concetto politico, l'ha spiegato molto bene. Per lui esiste solo il big deal, e oggi ti fa un deal, domani ti fotte. Scusa, come si direbbe in buon italiano? No, va bene così, non ti preoccupare. No. Dunque, io credo che, come hai detto tu, è una grande chance, è una sfida per l'Europa e di andare avanti con il cambiamento climatico. Ma perché, sai perché, Oscar? Non è perché siamo belli bravi e non vogliamo che si innalzino i livelli del mare. Per me ad Amburgo sarebbe stato anche piuttosto grave, che è una città di mare, no? E 30, 40, 50 metri in più se si sciolgono tutte le calotte polari, sono un gioco da ragazzi in arco di pochi decenni. Naturalmente Trump non lo vedrà più con la sua forma fisica, tra qualche anno non ci sarà più a godersi l'acqua a livello del Campidoglio, no? Chiaramente, però a noi e ai nostri figli deve importare. Invece saranno i mercati che noi adoriamo quando sono regolati, i mercati a punire Trump, perché sapete, le azioni delle aziende americane nel settore delle energie alternative sono già in discesa netta, e chi fa adesso l'affare di mettere tutto il mondo in tecnologie ambientalmente corrette, con le energie che non consumano e non producono, non producono CO2 o NOx, saranno le aziende europee, se sapranno prendere questa grande occasione, insieme agli indiani e cinesi. Sono d'accordissimo con te. Ha ricevuto India e Cina, che sono 2,5 miliardi di persone, un pochettino di più, 8 volte di più degli americani, e loro vivono già sulla loro pelle il disastro ambientale. La Cina ha rinunciato a costruire 100 centrali a carbone che questo deficiente americano vuole rimettere a prezzi proibitivi. Dunque lui rovina pure la industria americana. La rovina. Voi sapete che nella industria dell'alternativa americana io sono molto d'accordo con te. Nel petrolio e nel carbone. E aggiungo a chi ci ascolta, che non è detto che lo sappia, che il più delle competenze poi ambientali, di regolazione ambientale nell'ordinamento americano non sono federali, sono statali. Quindi un mucchio di grandi stati, California e così via, non seguirà minimamente questo andamento. La frattura di cui parla Udo nel grande business è già evidente. Quando Bush si rifiutò di ratificare la scelta di Clinton su Kyoto, l'effetto fu comunque che gli americani, nel complesso, non solo delle grandi corporation di investimenti tecnologici, ma la riduzione delle emissioni andarono molto più avanti di quanto fossero liberi di non fare. E io credo che questa volta sarà ancora maggiore l'effetto. Sì. E questa è una grande frattura con l'America, più importante di quella che si veda di qua. Non solo, ma guarda che il tema non è soltanto la produzione, ma distribuzione, trasmissione, esatto, e uso dell'energia, esatto, che incentivano sistemi smart, intelligenti, che, appunto, sono strutturali e sono poi a loro volta volano per tutta una serie, appunto, di altri effetti. Ma... quindi, cioè, è proprio un suicidio tecnologico. Ma poi questa fissazione di Trump per il carbone, che è irreversibilmente declinante perché comunque col gas naturale è perdente già all'interno degli Stati Uniti. Ma questa è la cosa più incredibile. È una follia. Quella che dici tu è incredibile, perché il totale degli occupati oggi nel carbone negli Stati Uniti sono solo 140 mila. Ma infatti... cioè sono metà, si è abbattuta della metà in 15 anni. E il vero problema invece è il gas, eccetera, eccetera. Quindi, esatto, è anche figlio di una visione dell'interesse esclusivamente americano che appare incomprensibile, a dirvi la verità. Cioè, non è un caso. Rex Tillerson, che per anni ha fatto uno degli oilman più potenti del mondo, è contrario a questa scelta, non è favorevole. Però io ringrazio Udo Gumpel per averci dato questa visione chiara e netta anche in questa puntata. Grazie, buon ritorno in Italia. Ma il biglietto naturalmente lo fai anche sempre ogni volta per tornare in Germania. No, tu ormai sei italiano, di' la verità. Ma io ho sempre il biglietto open per la Germania, scusami Oscar, no? lo sapevo, ma grazie, e noi torniamo tra un minuto. Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò, sì! I conti della Belva. Eccoci qui tornati, ma la domanda è: Renato Cifarelli è sbarcato dall'aereo oppure no? Renato? Sì, sono sbarcato. E tutti quanti che vi spostate da aeroporti, cioè, quindi l'aereo è riuscito ad arrivare con un ragionevole ritardo? No, poi alla fine... puntuale. Siccome gli aerei vanno a una velocità che è più bassa di quella che sarebbe la loro velocità standard, quando partono in ritardo vanno a una velocità un po' più... si recupera, si recupera. Fanno come faccio io quando vado in macchina, anche se non dovrei dirlo, che poi non è, non maresciallo, è maresciallo, tenga conto. Allora, ci è divertito, hai fatto un bel viaggio come sempre, voi imprenditori lavorate e poi siete sempre in vacanza. Infatti, siamo sempre in vacanza, ma infatti facciamo quelle cose lì, tipo andare in un posto dove si lavora il 2 di giugno, così recuperi un giorno. Vabbè, ma comunque io ti avviso che questa settimana, per la prima volta nella mia vita, ho ricevuto un bomb email di un tuo concorrente su macchine per giardino. Quindi non so cosa dirti, te le girerò. Evidentemente io è un bomb email sbagliato, perché io non ho né ville né cose. Però mi ha molto colpito, perché nel tuo settore evidentemente oramai si fa di tutto. Questo è il punto. Macchina da giardino, ma non è una macchinettina di quella, cioè non era una pinza automatica, era una macchina. Sono quelli magari che hanno comprato indirizzi sì, Hulk, però. Allora, questa settimana anche immagino lo Stato non abbia fatto venire meno il suo sforzo indefesso per dare una mano a voi imprenditori. Vuoi che ti dica la verità? Non lo so, perché ero ben lontano quest'anno, questa settimana ero negli Stati Uniti, sono andato, visto che si parlava di Stati Uniti, sì, ed è un paese che va ancora abbastanza bene. Devo dirti però che ho scoperto un paio di cose. Io ero in Ohio, a Cleveland, uh-huh, e in una che, a Cleveland, che per me storia, più che la bellezza di Cleveland, che non è proprio un gran bel posto, non mi ricordi, però il Cleveland è una delle due squadre che si sta disputando la finale di NBA, quindi è il grande, sì, scontro infatti, tra Curry e James LeBron. Quindi, okay. L'altra sera purtroppo giocavano dall'altra parte, e quindi non sono riuscito perché avevo anche l'albergo a 300 metri dal palazzetto. Vabbè, comunque. No, ti dicevo che allora ho notato due cose. Allora, una, che rispetto alle ultime volte che sono stato, l'America è diventata carissima. È sempre stato un paese con dei prezzi super abbordabili, e invece in questo momento ho l'impressione che anche da loro la classe media sia in grossa difficoltà, e ciò non mi, mi fa pensare al perché Trump è stato eletto. E tra l'altro mi raccontavano che Trump, parlavate del carbone, ha fatto praticamente la promessa in Iowa, che è il posto dove c'erano più più miniere di carbone, che lui le riaprirà. Sì, sì, le riaprirà. Questo, sì, sì. Questo è esattamente questo. Poraccio. E Iowa, Minnesota. È questo che sta facendo, perché sono paesi che sono andati, cioè sono paesi, sono stati che sono andati in grandissima crisi, e quindi lui sta cercando. Però ti dicevo, ci sono, ho visto che i prezzi sono molto aumentati e che c'è una situazione comunque di negozi sfitti, posti abbandonati, eccetera, almeno lì a Cleveland, che è abbastanza pesante. Quindi non mi stupisce che poi in una situazione del genere abbiano votato per qualcosa che è disruptive e che promette un cambiamento, insomma. Poi sull'Italia invece so che qua stanno continuando con la burocrazia per le nostre cose, ma vabbè, per fortuna questa settimana Hai preso un sospiro di sollievo. Ma nel tuo settore, nel complesso, al netto degli stati dove le cose vanno meglio e le cose vanno peggio, gli Stati Uniti sono in buona condizione oppure no? Ma io ho visto un'area dove il giardinaggio è molto forte, perché poi là è una cosa che è veramente molto molto importante, e lì ho visto molto ottimismo. Quindi complessivamente vediamo, le cose vanno abbastanza bene. Sì, sì, mi sembra che almeno in quel settore lì, in quella zona lì, vada bene. Poi mi dicevano che comunque permane sempre il solito problema degli Stati Uniti, quindi un welfare che rispetto al nostro. Però devo chiedere una cosa, Renato: vuoi aprire una filiale negli Stati Uniti? Vuoi fare un po' di manufacturing? Vuoi trasferire di là qualche fase produttiva? La filiale, dopo che abbiamo fatto l'accordo, c'è già. E tra l'altro hanno anche ho visitato anche una fabbrica produttiva che c'è lì. Vediamo, prima ci deve essere il mercato. Sono e poi, usciti i dati e la quota di manufacturing nel totale del lavoro degli Stati Uniti è al minimo storico, giusto per dire che c'è un'altra spiegazione, appunto, che quella classe operaia, quei blue collars, si sentono ormai una minoranza storica. Ciò detto, è chiaro che nuove produzioni arrivano negli Stati Uniti, ma sono di tipo diverso. Quindi in questo senso, quindi accordo distributivo ma non ancora produttivo, ho capito bene? Ma in questo momento sì, ma prima sai, dobbiamo crearci il mercato, poi si parla la fabbrica. In questo momento non parla il professor universitario Alberto Canaleffe, bensì l'amministratore di società americane. Questo lo dico come necessità di a chi ascolta, è bene che voi sappiate tutto. Quest'uomo ha mille cappelli, per questo ha pochi capelli, perché li ha persi sotto troppi cappelli. Invece Mario Seminario, come si vede, c'ha i ricci. Ma questo è vabbè. Va bene, allora grazie a tutti i contributi su Radio 24. Italia, l'Italia è mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte l'imposta.